Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Lo Zero Footprint Reskinning Award è un premio internazionale che è molto prestigioso e che viene assegnato ai progetti architettonici di ristrutturazione di edifici, progetti che evidentemente conseguono un forte beneficio energetico e ambientale. Ebbene, quest'anno un progetto italiano del Politecnico di Milano e dello studio di architettura Finzi, per la prima volta, dopo essere giunto in finale, si è anche guadagnato la menzione d'onore per la riproducibilità, cioè per il fatto di essere replicabile quanto a metodologia. Parliamo in particolare di un edificio che si trova a Milano, è la sede di Ergo Italia, una compagnia assicurativa il cui centro direzionale, che era stato realizzato negli anni 90, non solo aveva consumi molto elevati ma stava già cadendo a pezzi dopo pochi anni. Questo è almeno il modo in cui comincia questa storia. Vediamo come prosegue e ce lo facciamo raccontare direttamente dalla voce di Nicolo Aste, che è architetto ed è professore del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, che ha coordinato il progetto. Buonasera Aste. Buonasera a voi. Sì, la storia caratterizza molti edifici italiani costruiti alla fine del secolo scorso oramai, cioè edifici di scarsa qualità architettonica, scarsa qualità tecnologica e soprattutto scarsa qualità energetico-ambientale. Ecco, diciamo due numeri: questo edificio è un edificio di circa 50.000 metri cubi, una torre di 6 piani con un altro edificio di fianco, un corpo allungato alto 3 piani. Voi arrivate lì, vi trovate davanti insomma un po' un mezzo disastro, come stava dicendo. Che decisione viene presa? Ma allora, la prima cosa è stata quella di valutare l'entità dei danni, e questo involucro che si stava distaccando letteralmente a piastrelle che cadevano in testa ai passanti, insomma, sì, o giù di lì. Una situazione veramente paradossale, ma soprattutto perché l'edificio poteva considerarsi seminuovo. E la società si è trovata di fronte a dover sostenere delle nuove spese che non avrebbe mai più recuperato. Allora, dopo aver valutato il danno, si è detto: ma invece che dover sostenere una nuova spesa, perché non provate a pensare di sostenere un investimento, cioè spendere per riqualificare anche dal punto di vista energetico l'edificio, in maniera tale da rientrare nel giro di qualche anno degli esborsi che si devono necessariamente sostenere. Ecco, insomma, la società prende in considerazione inizialmente questa possibilità e vi commissiona uno studio di fattibilità, che mi pare di aver capito è stato il primo elemento, diciamo, forte del progetto. Sì, il primo elemento è stato proprio questo, la valutazione dello stato dell'immobile e anche dal punto di vista energetico, perché uno dei problemi era un costo eccessivo, assolutamente fuori da ogni media ragionevole, per quanto riguardava le bollette sia elettrica che del metano. Fate quindi un audit, misurate tutti i consumi e fate anche una simulazione dinamica, adesso senza entrare nei dettagli, ma che cosa vuol dire? Simulazione dinamica è inserire l'edificio, un modello virtuale dell'edificio, in una realtà virtuale e simulare effettivamente il suo comportamento giorno per giorno. Anzi, noi abbiamo fatto step di 5 minuti e si va a vedere in questo modo un comportamento molto prossimo alla realtà, piuttosto che i valori medi con cui ormai la progettazione è abituata a confrontarsi nel nostro paese. D'accordo, la famosa media del pollo, per cui di notte fa freddo, di giorno fa caldo, uguale temperatura ottimale tutto il giorno. Esatto. Allora, che interventi avete realizzato molto rapidamente? Allora, abbiamo rifatto completamente l'involucro, abbiamo aumentato il grado di isolamento termico, abbiamo aumentato l'inerzia termica delle pareti, abbiamo sostituito i serramenti con soprattutto vetri molto più performanti, abbiamo installato sistemi per il daylighting e quindi il controllo della radiazione solare e il suo sfruttamento ai fini dell'illuminazione naturale. Sì. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico che produce 3 megawattora all'anno e abbiamo installato un sistema di controllo che rende l'edificio interattivo rispetto alle condizioni climatico-ambientali al contorno e fa muovere aperture, schermature, bocchette a seconda delle condizioni che trova all'esterno. Perfetto, in modo che per esempio, voi ho visto che a sud avete fatto tutta una facciata a vetri, questa, tanto per fare un esempio, d'estate sarà aperta per favorire la circolazione dell'aria, d'inverno viene chiusa e esatto, fa effetto serra e contribuisce a scaldare gli ambienti. E avete fatto questa operazione che appunto è un reskinning, cioè una sostituzione della pelle dell'edificio, senza interferire con le attività che si svolgevano dentro l'edificio, vero? Sì, abbiamo organizzato tutti i lavori in maniera tale che non ci fosse neanche un giorno di fermatività all'interno. Allora, vediamo un po' qual è stato il risultato complessivo. Dal punto di vista energetico, quanto è migliorato l'edificio? Dal punto di vista energetico, una riduzione dei consumi di energia primaria del 40%. Senza modificare gli impianti, in previsione la sostituzione degli impianti, prevediamo che abbatterà di un ulteriore 20-30% il consumo. Dal punto di vista economico, che cosa possiamo dire? Innanzitutto il risparmio energetico. Risparmio energetico vuol dire evitare nelle bollette l'esborso di circa 80-100 mila euro all'anno. D'accordo. Per il caso in questione. Poi ci sono stati gli sgravi fiscali, di cui ha beneficiato la proprietà, che si aggirano intorno ai 150 mila euro, e poi il fatto che un edificio di questo tipo, oltre naturalmente a ripagare nel tempo i propri interventi, ma assume subito una qualità e un valore di mercato diverso, perché l'edificio efficiente in questo momento si vende meglio. Certo. Tant'è vero che all'incirca c'è stata una rivalutazione del valore immobiliare intorno ai 6 milioni di euro, che a fronte dei 2 milioni e 300 mila euro spesi per gli interventi, hanno comportato un plus valore intorno ai 4 milioni di quasi euro. 4 milioni, quindi l'operazione non solo ha una sua logica dal punto di vista economico legata al risparmio energetico, ma anche alla rivalutazione immobiliare pura e semplice. Dunque Aste, noi adesso ci dobbiamo fermare qui, però se lei è d'accordo domani torniamo su questo tema e ci concentriamo un po' più sulla metodologia, che è quella che vi ha fatto vincere. Assolutamente d'accordo. Va bene, grazie a tutti allora per essere rimasti in ascolto, appuntamento a domani.